dipendente comunale. Sì, ma con cuore. Sì, anche con cuore. Lei mi ha regalato a qualche... Io ci devo entrare a quarantena. Tra un buco. Cagliari 1, Renato 0. Cosa hai detto? Cagliari 1, Renato 0. Dammi passate tutti, ma per poco, però per poco è... Carissimo! Quanto tardi? amico non ha le tue coordinate. 9:20, fondo fondos. Alza che arriva un bel po' anche cosa, oltre per due. Ieri, io notte, quando l'ho sentito con la vampa, va di toccato, mi segnale che va, si mette anche a pompare, arriva a 4 temi. E ci vede che forte. Già l'ho sentito oggi. Già va bene. Però sempre bassa se l'antenna, deve sollevare. Sì, va bene, lasci da sollevare adesso, se l'ha piazzata. Quando se la sale 4-5 metri in più, vedrai che la cosa va bene. Non te la deve essere l'aspetto 7-4 onde della base del tetto. Per riuscire a piazzare bene, capito? Io tanto tempo fa avevo una gran pila e... Ma ti parlo degli anni 80, 85, la gran pesa di motor radiale, cioè avevo la messa i radiali, un quarto d'onda, dal petto, capito che si smaccano, sparavo, batti fuori, vazzi, mamma mia, l'ho dovuto subito togliere, non c'era verso, con qualsiasi barattino uscivi, sempre ti vuoi, facevo avvicinato. Gappa. Casino, vabbè, vediamo ci sale, guarda, oltre 50 è salito. Era stata in plastica celeste qua c'erano tre italiani piccolini, stavano aspettando non parlano a 6 metri, lo sai che mi sembrava brutta come nulla a me. Lui era più alto di me, di 3 piani, figura che a me mi sembrava brutta come quando voleva, io sono ricordo a Claudio, avevo aperto quello che mi trovava di fronte a casa mia per il setto. Poi usciva con una finestra di quelle piccoline, sembrava una tela di macchina. Se no, non avendo una tele, capito? Mi sta avendo, voi, intendi? Salto di coppa, si sente la metà un po'. Che bello dire come si sta avendo, anche a me fa così. Comunque, adesso dobbiamo chiedere a Coso, a Stefano, americana ci rimane telescopica, rimane però sta sotto un bel rosso sotto e rimane telescopica, metto quella sotto un paletto e ce la metto sotto al tetto, la faccio scogliere dal muro del coso almeno una ventina di centimetri, dovrebbe scompare bene. Sentirci, ascoltare e compagnia bene. Poi il resto va tutto bene, là, non c'è problema. Facciamo anche l'antenna, quella piccolina, tipo bazooka. Non è, l'altro giorno ho guardato, non è quella che la Tumor 27, quella che ho io. La Tumor 27 c'è il coso dorato e lo stiletto nero, invece questa è un colore argento con lo stilo di colore celeste, in plastica. Capito, figurati. E non vende, ce l'ho pensato, non vende niente, c'è un abisso da una all'altra, in distanza. Io sto guardando la musica al computer, e vabbè, comunque. Se piace l'antenna lì già. Se ti difendi bene, diciamo, guarda. Io mi sento da lontano, perché l'altra volta mi hanno chiamato, ha detto, capisco che la mattina secondo me è inviata, la prima io ma con la sapeva che quella era via. Eccoci, insomma, prima secondo me è inviata, proprio plurale, quindi tu mi sta un po' bene allora. Vabbè, sono un altro, perché, però, non tenere in macchina, sempre non tenere in macchina, anche se pensate in un palo basso. Tu di Brad Burrix, infatti, riprendi, arrivo subito. Grappa di Rogero, grappa, già vanno bene, va tutto bene. No, io adesso l'unico lavoro che devo fare è sollevare un altro metro e qualcosa, mettere un paio di tiranti e poi non la toccherò mai più, addrizzarla perché è troppo corcata, non va bene così, capito? Prendevo quella base che c'è e l'attacco direttamente al muro. A piombo con due o tre tiranti e la così, la sollevo 4 metri e la buglia più che bene, cava, riprende a tre. Aspetta, è mugiata, non va bene, non vuole dritta, vuole non è mugiata. Io ho detto che era piegata, non mugiata. Ah, ti tiene che balchetto, una scena, non ne posso fare né casa né lana, che... beh, io sono piccolo e nero, ricordatelo. Carissimo! Carissimo Falchetto, già ti mette in mano quella lì col nervo a te. Solo perché dice che il Milan ha perso, già ti attacchi ya. Ai. beh, che ci voglio qua? Non ci posso fare niente, non si è perso. Meglio per loro. Gnavosi. Sai karma. Ma lì è vicino a te. Ah, Sognavosi, mi sei parlando di tutti noi. E chi? 25 sta parlando a casa. Ah. Salutone, buonasera signora. signora a tutti perché c'è una certa educazione. Anche se signorina, sempre la signora è. Beh, è positivo, eh. Adesso già ci divertiamo quando c'è la propagatore tedesca. Io faccio parlare la signora qui così parla con i tedeschi. E tu parli con gli spagnoli. Va, va. E ti mangi anche un brodino di mammo. Bella be, aspetta va che vado a fare con la commissione e sto arrivando subito. Va bene, a te. Scusa, lì dai. Non ho fatto il caldo, aspetta. Uno, due. Ti vedo qui. Ecco qua. Ah, già è andata, va. Avanti, là, ci sei. Dopo. Dove è sparito? Dimmi, dimmi. Stavo dicendo, ma quell'apparato si riesce a mettere a posto o cosa devo fare? Bene, pazienza, l'altro giorno sono andato là, da Fusano, e gli ho detto, mi sta parlando di 27.8, no, ho detto, non me l'ho detto, non me lo dica, ci sono qua perché l'ho già piazzato e non va bene. Devo piazzare gli insalati, detto, diciamo, c'è una canova, ma cosa, mi dico, non me ne frega niente, tu c'è una parecchia, sto fermo, ho detto, non è questo, questo mi ritiro, perché quello non è un problema, però ci vuole profilare su, purtroppo, in questa parecchia qua, e tu, perché c'è la pigmentatura diversa, capito? Non c'è trovato niente, perché se devo spendere 20 euro si spendono e si mette a posto. Appunto, ma siccome il 2078 una volta ho gli paracchini e c'è la, da uno all'altro sono diversi di pigmentatura, capito? C'è la qualificazione al contrario. Allora si fa adattare, solo che uno lo vuole adattare, perché adattare quando c'è il finale su originale? Devi aspettare una settimana e mi arrivano, perché ci devono avere altri finali, ma non il 19.79, tantomeno i corrispondenti, capito? E poi anche l'integrato di Stefano, sto aspettando, anche quello. Purtroppo basta per la questione di tutti i banchi, siamo tornati indietro, prima l'aver cercato spesso, l'avevi anche una cassetta intera per dire. Adesso siccome il vendita dei barattini non c'era quasi più, quindi i componenti non sono più facili da arrivare, capito? Ho capito. Ha detto per una settimana li arrivavano. Mentre aspettare dice un po', aspetta un po', dice di fare quel pezzo. Tu va bene, ha detto. Ma che sia, io ho detto. Dico, non posso lasciare detto, una panichetta dentro casa con detto senza finirlo. Ha detto va bene. L'apparecchio te lo do così, tanto lo provo anche il microfono di Mario. Con l'apparecchio tuo mi affronterà bene. Gabba gabba. Mi interessa con l'M300 se riesce a metterlo a posto. Se non mette 100 metri, meno male, almeno se sei qualche pezzo gli faccio gli altri 2.100 qua. Non uno uguale al tuo, te l'hai visto. E l'altro me lo do vecchio. D'altro ne dovremmo uno. Lo facciamo nuovo di funzionare, già non ci sono problemi. Gabba, stavo dicendo a Tonè, a Fusano dovevano arrivare anche i cavi, capito? Il cavo del microfono dovevano arrivare, quelli a 6 fili mi sembra che erano, quello che montava l'M300, li dovevano arrivare. Se sono arrivati, prendilo, poi già ti lascio su lì, non ti preoccupare, Antone. Se non andavi giù, non ti preoccupare. Quando rientro passo da Fusano e così te lo prendo. E così ti ho dato pure quelle metà cento, perché ci sono, mette cavi nuovi, faccio salature come si vede, con i capelli lì, mamma mia, ti rendo nervoso, quando c'è il metà cento smontato, si staccano i fili, perché sono troppo di giga, sono troppo di giù, non capisco. Prendilo che Fusano, vai, perché ti dovevano arrivare, se, tanto costano 5 euro, tu prendili, poi al limite mi fai sapere, lì alla... Mi chiami al baracchino, mi fai sapere, capito? E poi ti lasci il soldi, no? Non ce ne sono problemi, capito, Antonio? Va bene, non c'è problema, allora la piaglia ci passo io. Avanti, Natali. Attento Gianni, quel segreto sul 21. Oh, per tappa, Antonio. Ciao Gianni, ciao a tutti, ciao Gianni. parlo, magari ascolto, perché lui diceva ospite a casa adesso, allora di pranzo. Se l'ho sentito adesso, Gianni, io ti ho rumo. Chi l'hanno già sentito? No. Ah, ecco, col segreto sono 21, scusate. E io la saluto da Gianni. La ventola si è messa in botto. Cava, cava. Siamo messi qui, là. Sì, ya, d'accordo. Attento, fa porco! Dimmi. Ieri sera mi sono preso fuori, mi sono bevuto la birra e mi sono salito a casa. e lì fu fuori che la calda, non trovavo ancora che parla di rinfrettere. Umidità. La gente mi ricava che cuffia che me chi scende la reci. D'accordo, chi è che vuole entrare avanti? Le propagazioni, sento un bip basso forse. La propagazione spagnola ci deve essere. Ah, parogeno, sì, lo sento anch'io. Va bene questo microfono, Bobo? Sì, quello del BP5. Capo, ma va bene? Sì, che va bene. Spara. Ah, voglia che spara. Dovete comprare quando facete giù al posto, mi ti fa un viaggetto in moto. Se prendo le batterie, ci sono quelle batterie nel bosco. Cioè. Con lui è un tema più di 2 o 3 di frettica. No, me ne l'ho fregato, ne ho preso una ieri, come si dice, a caccia e pesca. L'ho misurata col tester, ed era scarica. Figurati, ah, cinese, scendi, vai a corsa, se costa poco l'hanno battito, ho comprato quelle lampadine io, quelle basso consumo ieri. Ne ho preso 3 e ho speso 4 euro. No, aspetta, mi ho rigenerato 10, ne ho preso 4 euro ho speso, figurati. Non volevo qualcosa, una lampadina pagata. Di solito lo fanno pagare 4, 5 euro. Già speso poco. Sì, neanche pensato addirittura. Alla cliente che ha fatto pagare 5 euro l'una, figurati se mi sono fatto uno sgombo. Già, magari, va bene. No, già se risparmia lì da cinesi, a voglia. Dimmi. Infatti ha risposto prima tu e poi lì. E infatti, come hai detto, dov'è tu? E tu dimmi, risposto lì. Andare. Tratta lì. Oh, ma tu sei VM? Sì, ah. La tua 25 è in casa? Sì, sono andato a prendere le pizze, capì? Kappa. Va bene. Non posso venire, io sono appiedato. Ben volentieri. Benissimo, se me lo dicevi, ne compravo una in più, anzi due, una zona alla tua signora, e venivate da me e ce le mangiavamo assieme, non c'è problema. Tu me lo dovevi dire. Natalia, lo sai che ho il problema mio che sono appiedato. Ma se lo sapevo venivo a pigliarti io, va. Dai, alla prossima, dai, non c'è problema, Natalì. Molte grazie anche alla tua 25 per l'invito. Sì, Gianni? Chi? Ma Gianni, sì. No, Falchetto sono. Ah, Falchetto, sì. E allora? No, avevo fatto amicizia con uno che si chiama Gianni, ma non lo sento più. No, ci sono spostati, stavo facendo dei controlli radio, e si sono spostati sul 21, dai. Ciao anche a te. Ciao anche a te, dai. Sogna la radio che va. Ed è Galaxy, ed è a metà il microfono, chiude. Oh, è forte, lo credo bene. Hai servito qualcosa a sollevare l'antenna da lì e avere tutte cose buone? Devo solo regolarla e basta. Intanto è una cazzata, devo togliere 2 bullone per far rientrare il palo e regolarla, e poi ce la risalgo, ma esci a una bomba, hai un acquisatore, un please, se no c'è stazionario così, vabbè, sono già sulla strada di casa. Cappa de Roche, buona carica allora, buon tutto Natalì, a te e alla tua 25, e ci riascoltiamo a più dopo se coincide, dai. Sì, non c'è problema. Va bene, Meda. fa parla, tanto c'è qui lì. K di Roce, non andate lì, non c'è problema. Perché ancora non sono arrivato? Ah, non sei arrivato ancora. Allora dai, trovi vicino, dai. Sì, no, tra Riccardo sono, non so che arrivi ancora. Ah, K di Roce. Senti, arrivo in quelle coordinate, Nadà. Fortissimo, arrivi qua. Ciao Massimiliano, ben entrato anche a te. Tappa, buonasera. Tappa, e buonasera anche a lì. Buonasera, Calantale. Ciao Massimiliano, Barratto Mobile qua, direzione Cuticacca. Che io Barratto Mobile, il movimento. Da pagare. La macchina domani, vero, fa che? Positivo. Domani sono in altre coordinate lì a Romero, stamattina siamo andati e abbiamo piazzato il tutto. Ah, piazzato? E mi manca mettere la porta, basta. Ah, K, già va bene. Dove sei diretto? A tua suocera? Positivo. K di Roce. No, si dice K e poi Roce. K e poi Rogero. C'è poi oltre Natalino e tu, tutti a mangiare la pappa? No, c'era Antonello Pompone, ci si, un po'. Pappa, mi sono spostato un secondo perché si è fatto un po' il fumo della cucina e mi sono andato a venire a mangiare. Pappa, intanto va a segnare un bulldozer. Ah, ma si è venuto a fare per un tratto. Ciao! Buonasera, ben sentito. A chi va che sono battato un liscio in bocca? Ciao Gianni. Cosa? Massimiliano. Lo conosco allora. Massimiliano, non è Gianni. Gianni è qua. Gianni! Ma con chi abbiamo l'onore di parlare? Buonasera signora. Ciao, buonasera. Con chi ho l'onore di parlare? Ridi, a me mi ha fatto gli gnocchi. Sono arrivato. Sono 25 anni da io già. Sentito, avanti la signora, buonasera. Ciao. Che parlo io? Chi sei? Il microfono. Chi? Sono io, tu? Anche io sono io. Dietro qualcuno che modula. Sono io conto, un spore milioni di cicombie. Vela, vela, e allora? Ciao a tutti, dai, io me ne sto andando a cena, chi è che mi voleva? Io ti stavo chiamando, ma chi è Antonella? Eia! Non stavo durando, se tu sei in macchina. Sembra la radio chiama bene, Vabbè, che faccio un po' prosivo, dai, e poi tutto buon lavoro per trovare, dai. Parodino, dai, comunque per paio deciso, quel Pluto non me lo prendo, mi tengo questo. Appena il primo foglietto bianco del ritiro, il primo sei tu. Che compare, vabbè, mi sembra una cosa giusta, perché è così, a me non mi piacciono avere i buffi in giro. Non c'è problema, Massimiliano. Che appaga, Pierino, Pierino, Pierino. Dai, buonanotte a tutti, dai, ciao Falchetto, Natalino, chiunque sia l'ascolto, io devo chiudere, ci sentiamo alle prossime, ciao Gianni e tutta la ruota, dai, ciao, ciao, ciao. Ciao Massimiliano, buona carica con tutto, dai, alle prossime. Ciao, ciao Massimiliano, alle prossime, ciao, ciao. E rimane tutta la casa, non c'è una calamità che appacca. Tutta la casa, come non c'hai, non c'hai la fase calamitata. No, non ne ho io questa calamità, te dove c'è luce? Vai, che già c'hai, apri, che già va bene anche quella calamità di quell'antennino del portante, dai. Ah, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero, c'è ragione. Dai, io cazzo so più io che tu. Non ce l'ho pensato, sai qua, dai. Apri la valigetta. Apri le tue la calabasa calamitata. Però tu la glielo passi un paio di volte. Se si è scalamitato le tue cose lo ricalamita subito. Che falchetto dove lo metto non si sa. Va a venire che non c'è posto, non c'è posto in carità. Buonasera per Paolo. Buonasera. E allora, tutto Roger? Campo positivo è Roger. Avemo spatus pacchettus. Tutto spatus. L'uomo de babus. Quanto siamo oggi? Quanto siamo? Quanti chilometri hai fatto con un litro? Pochi, ma pochi però, Allora si appaga pagola. A poco oggi che la mare si trabacca. Va, beviti un bicchiere d'acqua minerale e dopo così recuperi tutto. Scusate, sono io per vedere, ma non vi fa un cazzo. No, spero un pochino. Un attimo di bianco, riprendo subito, ragazzo. Non pensare a un conto, controllarlo è un'altra cosa. Ma già lo controlliamo domani. Adesso vorrei stare un po' assussicata. Facciamo le volte, toccando, quei filaccioli lì si staccano volentieri, spesso e volentieri. Io pure stasera ci ho toccato un filo e si sono staccati lì. Non lo so, lo controllare, ti direi una fesseria, se ti dicessi che non lo sta cazzo, non lo so, devo controllare. Cavagava, tutti i mali non vengono per nuoce, perché io ne sono sicuro, perché ho guardato adesso l'altro smitter dell'altro apparecchio. Sempre allo stesso punto, perché stasera questo invece non segna quanto deve segnare? Pensi che io l'avevo matato il Giuseppe e ti ho parlato così. Cosa c'è? Non funziona? No, quello che è possibile, qui Santiago 8, però faccio l'altro per vedere quanto arrivava, perché era... se gli indirattano. Giuseppe, non ce l'hanno più il bar, vero? può dipendere quando si ferma il vatto con l'apparecchio. Filo staccato, smagnetizzazione della lancetta, che non passi. Magnetizzata. No, non abbiamo messo la calamita a fare nulla. Ma non ti danno la nota? No. Rimasta col vecchio, non ho trovato niente. Ho provato il mancanto, anche col pettino, ho dato certo lo spacco al vetro. Ma gli ho dato i colpettini giusti. E vabbè, domani lo apro, vediamo un pochettino se magari si è staccato qualche filetto. Ragazzi, ho avvicinato un po' di più al microfono, 200 metri. Pensi che si sia attaccato qualche filo. Bisogna vedere cos'è. Fa, dimmi, parla piccolo, mi sembra. No, negativo, no, sicuramente è proprio che sta provando con qualche altro canale. Perché gli sei lo senti? È poco, ma se lo fosse barra agricola, perché se lo intende molto l'Atlantone, da lì non esce fortissimo. Gamba. Lui che sta provando un altro canale. Sì, per vedere cosa c'ha. No, io già sento a te, non ho problemi, no. C'è quel messo male di testa, ma lo passi tranquillamente senza nessun problema. Ehi, vabbè, come che non mi hanno, grazie. Falchetto. Già dormito, sei Gianni. stavo ascoltando che cosa stavano dicendo sotto fondo. Visione di un uomo. Non so, così sapremo cosa vai da testimonia. Amicizia. E io prego. Qua, alle 10 siamo collegati. Dobbiamo andare là.